fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui, benvenuti, è 1:20 del mattino, sabato 1 settembre del 2018 e apriamo le porte ufficialmente della nostra Resto Radio Convento, come sempre facciamo, per raccontarsi e per raccontare questo bello spazio in cui diamo modo ai nostri protagonisti, ai veri protagonisti delle nostre feste, i festeggiati appunto, di parlare un po' di sé, di raccontarci il motivo per cui sono qui. Partiamo questa sera con una bellissima ragazza, e sottolineo bellissima anche perché è stato il modo con cui sono riuscito ad abbordarla nei nostri studi. Adesso vi racconteremo tutto nella maniera più vecchia del mondo. E diamo il benvenuto a una sposa, immagino, sì. Giusto? Una futura sposa, pardon. Benvenuta, ciao. Ciao. Come ti chiami? Sara, che c'hai un po' di candy, un po' di Kiss Me lì, cioè, ricorda un po' quel mondo lì. E come si fa all'inizio delle storie d'amore? Racconta un po' come è avvenuto il nostro incontro pochi minuti fa all'interno del locale. Avevo una penitenza da fare. Ah, questa mia è nuova, va bene, mi fido delle sue storie. Mi sembravi una bella faccia, sì. E ho detto, perché non farla con lui? Ah no, e che penitenza deve fare? Aiutami, no, notaio. Allora, dovevi dirmi qualcosa di carino su una parte del mio corpo. No? Ah. Farmi fare una dedica. Sì. Io ti ho chiesto quanto sono carina e tu mi hai detto, tanto in radio non si vede. Esatto, vedi. Perché il modo più vecchio per abbordare una ragazza è convincerla a fare quello che tu hai bisogno che lei faccia. Prima c'era la tecnica del scusa che ore sono, e adesso c'è il modo, insomma, io l'ho chiesto se aveva voglia di fare questa intervista con noi e lei mi ha detto tali parole, ma io non sono bellissima questa sera, e le ho detto tranquilla, tanto in radio non si vede. E lei giustamente se l'è presa perché sperava che le dicessi ma no, sei stupenda, sei fantastica, sei la cosa più bella che abbia mai visto nella mia vita, da quest'oggi da quando sono nato fino ad oggi. E infatti io ho iniziato esordendo dicendo bellissima ragazza qui con noi. Vuoi raccontare un po' come sei vestita, anche se vedo un miscuglio di varie cose, di varie idee, di vari... È normale, jeans, scarpe da ginnastica, anche perché è una sera un po' bruttina, ha piovuto tanto. Tanto. Però su una parrucca fucsia, che è il mio colore preferito, un sì? Boa rosa. Un boa rosa, ok. Ma perché il tuo colore originale di capelli qual è? No, sono bionda. Ah, bionda. Vabbè, sai com'è, non si capisce da lì sotto. Con la parrucca non si vede. Quindi il fucsia è il tuo colore preferito? Sì. Cioè non il rosa e non il viola, ma il fucsia. Amo anche il rosa, ma il fucsia è un po' più appariscente. Oh, benissimo, benissimo. Allora, non abbiamo fatto la cosa più importante, nonostante già stiamo parlando da qualche minuto, che è presentarti. Sì. Ci siamo dimenticati di questo. Come ti chiami? Mi chiamo Sara. Da dove vieni, Sara? Vengo da Bagnolo Mella. E la cosa importante di questa serata è anche ricordare il motivo per cui sei qui con noi. Dici un po'. Sì, perché le mie amiche mi hanno organizzato il mio addio al nubilato. E perché il 6 ottobre mi sposo con Umberto. No, oh, che bello, 6 ottobre con Umberto, che è un nome che mi sa di importante, no? Mi ricordo una persona di un certo livello, di un certo tono. Speriamo, te lo sei scelta tu, amica mia. Se non sei ancora sicura di quello a cui vai incontro. No. Sono sicura, però molto bene. Insomma. Non si sente, insomma. Promette bene, ok, promette, diciamo, bene. Che è un buon investimento. Sembra essere un buon investimento. Vi conoscete da tanto? Un anno e mezzo circa. Oh, mamma mia, hanno fatto veloci, cioè neanche Maria De Filippi è riuscita a fare. Vabbè, a far tutto. Capisci? Quello che vuoi dare dalle cose. Tac, così. Ma è modalità colpo di fulmine o modalità me ne sono accorto troppo tardi? No, colpo di fulmine, però sì. Boh, all'inizio ero impegnata, quindi non... Boh, non... Non ti interessava? Sì, mi interessava, però... Ero impegnata, sì. Ok, e poi no, adesso mi sta incuriosendo questa storia. Cioè, ti sei disimpegnata o la vita ti ha fatto disimpegnare? Se ce lo vuoi raccontare. Mi sono disimpegnata. Per lui? Sì, per lui. Bellissimo. Quindi è stato un bel rischio che ti sei presa. Sì. Ma lui si era già dichiarato o avevi intuito come solo voi donne sapete fare? Si era dichiarato, ma non proprio apertamente, quindi è stato un po' un rischio. Quindi tu ti sei liberata per lui e ti sei presentata libera o gliel'hai fatta un po' penare? No, gliel'ho fatta un po' penare. Perché ai ragazzi è giusto fargli un po' penare. Però lui aveva capito. Sapeva che ti eri liberata. Sì. Hai visto che roba, che bello. E volevo un po' tornare sulla frase che hai detto prima, per portarla anche un po' sullo psicologico. Quando hai detto a una certa età si capisce, sì. E dimmi un po' cosa hai capito. Cioè, nel senso, cos'è quell'elemento che ti ha fatto capire, quel qualcosa che ti ha fatto accendere la lampadina o la scintilla? Boh, non so come spiegarlo, però... Prova parole tue, è bello tirar fuori le emozioni. Non lo so, senti qualcosa di diverso e capisci che con quella persona ci puoi costruire un futuro. Ah, ok. Cosa che con altri non avrei mai fatto. Non avresti mai fatto, quindi è qualcosa che anche un po' non si spiega. Sì. Che rimane un po' nell'istinto, insomma, sì. Anche meno nella mente, nel razionale, rimane testa nell'istinto. Testa e cuore insieme, sì. Testa e cuore insieme. Tra l'altro dovete sapere che la nostra Sara fa anche un bel lavoro, me lo dicevi, oddio, non lo so, ho sbagliato a dire bel lavoro, probabilmente, sì. Perché ne ha riso, no, non è vero. Fa anche un bel lavoro che... immagino ricco di soddisfazioni ma anche di difficoltà quotidiane. Vuoi raccontarci ancora anche qualcosa di questo? Sono un'insegnante della scuola primaria e mi piace il mio lavoro, mi soddisfa e... Ma... a volte impegnativo, però sì. Ma sei quella primaria in cui insegni un po' di tutto o hai una materia specifica? Insegno prevalentemente matematica e scienze. Ok, quindi sì, insomma, quella categoria di... E, beh, aspetta, primaria, elementare, quindi elementare, sì. Ok, quindi una sei quinta, però. 6, 12, 6, sì. 13. No, sei tu, sei 11, 6, 12. Sei 11 circa. Ok. E che tipo di maestra sei? Come ti definiresti? Aiuto. Severa ma non troppo. Cioè modello tipo libro cuore o più 2018? No, più 2018, no. Al passo coi tempi. E basta. Ah, ok. No, okay. Bisogna essere un po' più aperti. Mm-hmm. Andare incontro ai bambini, andare incontro alle loro necessità, andare incontro a tante cose, sempre mantenendo un po' di rigore, un sì, po' di, insomma, l'autorevolezza del ruolo che impone. E qual è il problema più ricorrente che incontri nel tuo lavoro? Cioè con i bambini di quell'età lì, ma che ne so, magari i genitori o la poca i voglia genitori. Di imparare. E vedi, i genitori, lo immaginavo, hanno delle pretese? A volte sì. Di che tipo? Perché i figli non sono mai, non è mai colpa loro, è sempre colpa degli altri. Vedi che già lo immaginavo. Allora, non sei ovviamente sola, anche se stai parlando da sola al microfono. Vuoi fare una menzione a chi ti ha accompagnata questa sera? Sì, vuoi salutarle? Salutare le mie amiche, le mie cugine, perché io pensavo di andare a casa. E invece ti hanno fregate. Vai con la lista dei nomi, così le citiamo al microfono. Allora, Elena, Laura, Cristina, Sandra, Sara e un'altra Elena, Dario. Anche un uomo ti sei portata? È andato via. Ah, è già andato prima via. C'era. Prima c'era. Bello questo miscuglio di sessi durante la festa. Sì, è mio amico, è mio carissimo amico. Guarda che io sono favorevolissimo alle aperture, alle rotture degli schemi, perché di solito il nubilato donna, celibato uomo, invece no. Perché no? Perché no? Finché, cioè, se è una cosa, come dicevamo prima, che si sente dal cuore, perché no? Vai, siamo quasi in chiusura, vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa? A parte il ringraziamento che hai già fatto alle tue amiche. No, saluto tutti, ringrazio tutti e... l'unica cosa, ho rincontrato la mia ex compagna di università stasera che mi ha fatto strapiacere. Qui? Sì, e, cioè, nel senso, non era al tuo tavolo però, no. Era un'altra festa. Erano anni che non la vedevo e l'ho rincontrata e mi ha fatto strapiacere. Pensate, siamo ormai diventati come Raffaella Carrà, il caramba, caramba che sorpresa. Veramente succedono delle cose incredibili al convento e sarà anche chiaramente il numero di persone che possiamo ospitare e il bacino che insomma ci contraddistingue, però mi fa piacere che tu abbia anche un ulteriore ricordo di questa bella serata che già lo era, e in più secondo me questa ciliegina sulla torta, chiamiamola così, che te la porterai via. Va bene, allora grazie mille Sara, intanto ti facciamo tanti auguri, un in bocca al lupo per tutto e speriamo che ci sia tanto fucsia nella tua vita, nel tuo abito da sposa, nelle scarpe, non lo so, da qualche parte nella ce lo metterà. Vita, nella vita, dai, una vita in fucsia, una vita in fucsia per la nostra Sara. Grazie ancora, un grazie alla nostra videomaker ufficiale della serata, che ci ha fatto un bellissimo video. Lei è la Elena, giusto? Elena è una delle due Elene che ringraziamo, candidata al Leone d'Oro, alla mostra al cinema di Venezia. La troverete in lista nei film con un documentario scritto Sara solo per te. Questo è il titolo del suo documentario. Quindi grazie a Elena e grazie ancora, tanti auguri ancora, Sara. Grazie a te. Ciao! Ciao!